c'era un atteggiamento, prima di questi procedimenti penali, di una certa assuefazione. La giustificazione era quella: questi beni sono stati acquistati sui mercati meridionali perché dopo la guerra noi eravamo poveri e quindi ci vendevamo anche le opere d'arte. Potevamo venderli. È ancora lunghissimo l'elenco delle opere disperse che l'Italia prova tuttora a recuperare e a distanza di molti decenni ci sono ancora battaglie giudiziarie aperte dai magistrati per riavere quello che i nazisti portarono via soprattutto agli ebrei a 80 anni dalle leggi razziali. E da qui allora ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta... Storiacce. In molti casi in questi depositi si trovarono quadri, opere d'arte già imballati con l'indirizzo di casa di Göring. Interi treni partivano dall'Italia verso la Germania nazista e in particolare verso l'abitazione del braccio destro del Führer, il maresciallo Hermann Göring. Opere d'arte tolte soprattutto alle famiglie ebree. Col tempo e con una paziente e complessa azione giudiziaria, molte sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari e comunque all'Italia, che tuttora continua ad avere cause aperte. L'ultima, ad esempio, della Procura di Bologna, che ha chiesto di far sequestrare 8 opere del Museo Nazionale di Belgrado, 8 capolavori ancora ostaggio della Serbia, il ritratto della regina Cristiana di Danimarca, di Tiziano, la Madonna con Bambino di Tintoretto, il San Rocco e il San Sebastiano, entrambi di Vittore Carpaccio, solo per citare i principali, opere trafugate nel 1943. Su quegli stessi vagoni furono imballati moltissimi altri tesori, in parte poi recuperati, in parte messi in salvo da un gruppo di esperti voluto dal presidente americano Roosevelt, esperti che non furono solo americani ma anche inglesi. E dall'ombra stanno emergendo ora le biografie di restauratori, di direttori di musei, di archivisti, come quello che a 61 anni ricevette l'incarico di mettere in salvo documenti dalle località liberate. Ed è allora, anche per ridare onore alle loro storie, che Alberto Mio Martini e Andrea Villa stanno per far uscire un libro legato alla Expo Gallery di Milano sui Monuments Men inglesi in Italia. Tutt'oggi continuano nel nostro continente, nella nostra nazione, ma anche ovviamente in paesi africani o Stati Uniti, la ricerca di opere di cui si è persa la traccia, che certamente sono state trafugate durante l'ultima guerra dall'Italia. È possibile, Andrea Villa, andare anche già qualche indicazione delle opere, almeno quelle più importanti, di cui si sono perse le tracce? C'è praticamente un elenco, una lista aggiornata che viene tenuta dalla Fondazione Monuments Men che si trova negli Stati Uniti e poi chiaramente qui in Italia dai carabinieri, quindi dal nucleo di tutela del patrimonio, esatto, culturale. E infatti siamo proprio qui a Milano, ecco, mi piace ricordare che in qualche modo la ricerca dei Monuments Men è arrivata praticamente fino a noi perché proprio qui a Milano nel 2009 per la precisione, durante insomma una vendita pubblica di quadri c'è stata un'irruzione dei carabinieri che appunto hanno scoperto in qualche modo un quadro importante del barocco che era Santa Caterina d'Alessandria di Bernardino Strozzi, quindi appunto un importante pittore del barocco, è stato trovato a Milano, era stato confiscato nel 1938 ad un cittadino americano che risiedeva a Firenze di religione ebraica. Lui dopo l'emanazione delle leggi razziali è dovuto scappare, quindi emigrare dall'Italia, è andato in Svizzera, il quadro è stato preso dalle autorità fasciste, dopodiché nel 1943 i tedeschi l'hanno voluto per loro, l'avevano portato in Germania, di lì si erano perse le tracce, nel 2009 è spuntato a Milano e quindi è stato finalmente ritrovato dopo decenni. E ce ne saranno ancora molte altre come questo, Alberto? Ce ne saranno molte altre, peraltro ecco, mi piace ricordare che in fondo i Monument Men trovano la loro ragion d'essere in un bombardamento famoso che colpì Milano nell'agosto del 43, non dimentichiamoci che poco prima c'era stato il Gran Consiglio che aveva destituito Mussolini e ci furono in Italia bombardamenti veramente tremendi fatti in particolare dagli inglesi di notte, dagli americani di giorno e venne colpito Santa Maria delle Grazie e per miracolo, forse qua il termine appropriato, si salvò il cenacolo di Leonardo da Vinci. Questo suscitò grande impressione non solo tra le amanti dell'arte, ma anche tra i responsabili, Churchill in particolare, e tra gli americani, Roosevelt, che decisero di fondare il corpo dei Monument Men, per il quale vennero arruolate persone fuori età per fare la guerra, e in gran parte in Italia si svolse questa azione di recupero, e la guerra non era ancora finita. In Italia che tipo di azione di recupero è stata svolta dai Monuments Men nel loro insieme? Poi veniamo a questa specificità della vostra ricerca, che è quella dei Monuments Men inglesi. Intanto, per quanto riguarda l'Italia, le opere d'arte complessive restituite dai Monuments Men e dagli eserciti alleati al governo italiano sono state circa 252.000, quindi un numero altissimo. Non soltanto i quadri, ma anche le sculture, i libri, centinaia, anzi migliaia di libri trafugati dagli archivi italiani, dalle collezioni private, soprattutto di cittadini italiani di religione ebraica. Quindi è stato veramente un furto, bisogna dirlo, di notevoli dimensioni. La maggior parte delle opere, appunto, che sono state restituite, dove si trovavano? Si trovavano in circa quasi 600 nascondigli. Nel film, appunto, di Clooney si vedono le celebri miniere anche in Austria o nel sud della Germania, ma in realtà erano i più svariati, quindi ex fabbriche, castelli, musei utilizzati dall'SS per nascondere le opere d'arte. E in molti casi in questi depositi si trovarono quadri, opere d'arte già imballati con l'indirizzo di casa di Göring. Erano stati appunto rubati, portati via, diretti a quelli che erano appunto i vertici del nazismo. Ecco, Alberto Meomartini, ricordiamo la storia appunto dei Monuments Men, soprattutto americani, ma un ruolo importante hanno avuto anche gli inglesi, che sono rimasti un po' in ombra. Sono partiti di fatto seguendo la risalita dell'esercito di liberazione alleate del movimento di resistenza, e quindi per esempio anche a Napoli hanno svolto un ruolo particolarissimo, la Sicilia, Napoli, e risalendo a Firenze. È interessante perché gli inglesi avevano particolari responsabilità nell'attività dei bombardamenti in Italia, con un atteggiamento molto efficientistico che si scontrava con la diffusione delle opere d'arte in Italia. Ci faccio qualche esempio sulla Sicilia o su Napoli? Per esempio la sensibilità crescente della necessità in un qualche modo di tutelare l'opera d'arte aveva portato, facciamo un elenco dei luoghi che non possiamo bombardare. Uno dei protagonisti di questa, della pianificazione dei bombardamenti, era uno strano professore, Zuckerman si chiamava, inglese, insegnava ad Oxford, un anatomopatologo, insomma un medico, che studiava gli effetti delle bombe sui luoghi fisici per rendere più efficiente il bombardamento. Lui diceva: siccome bisogna impedire ai tedeschi di spostarsi, dobbiamo bombardare il centro dei paesi del centro Italia. Ma il centro dei paesi del centro Italia, l'Umbria, il Lazio, è un immenso giacimento di opere culturali. Come dicevo, allora hanno deciso di provare a salvaguardare qualche città. Io ricordo che mentre adesso siamo purtroppo abituati a vedere anche filmati delle cosiddette bombe intelligenti, ma allora l'approssimazione dei bombardamenti era tremenda. Citava Napoli, mi incuriosisce. Sì, allora diciamo che Napoli è stato, dopo Milano, l'altra svolta per i Monuments Men. Cioè Milano, allora, metà agosto del 43 viene colpito e il cenacolo rischia, insomma, di sparire. A Napoli cosa succede? L'ultimo giorno, il 30 settembre, quindi l'ultimo giorno delle quattro giornate di Napoli, i tedeschi sono in ritirata, entrano in una villa che apparteneva a una famiglia nobile, Villa San Marzano. La località è Belsito, vicino a Napoli, proprio per rubare degli oggetti d'arte. In questa villa si trovavano praticamente tutto il materiale che un tempo era conservato nell'archivio di Stato in centro e negli archivi comunali, e quindi pergamene, antichi manoscritti medievali importantissimi dell'età angioina, aragonese. Sostanzialmente i tedeschi, una volta che hanno rubato le opere d'arte più importanti, danno fuoco a questi libri. Sono andati persi migliaia di volumi che appunto risalivano al Medioevo. I Monuments Men arrivano immediatamente sulla zona, proprio seguendo i militari della prima linea, mentre c'è un racconto di uno di loro che appunto descrive ancora l'azione dei cecchini, quindi la paura di finire sotto il fuoco dei cecchini tedeschi. Fatto sta che riescono ad arrivare, provano a salvare il salvabile, cioè magari a tirare via dalle fiamme alcuni libri. Alla fine di questa giornata in cui è andato perso un patrimonio importantissimo, i Monuments Men inglesi decidono anche di salvaguardare non solo i monumenti, ma anche gli archivi italiani. E quindi chiamano insieme a loro un archivista che all'epoca aveva 62 anni e si mette proprio in marcia con una jeep al seguito delle truppe per salvare gli archivi italiani e catalogarli. È un lavoro fondamentale, il primo lavoro per riuscire a recuperare quello che è andato perso e avere la conoscenza di quello che si è perso, un tema che si ripropone anche adesso in altri contesti bellici come può essere la Siria, con le distruzioni di Palmira e il trafugamento da parte dei stessi militanti dell'ISIS di tanti beni archeologici dai scavi clandestini. Ma se non si conosce quello che si ha, se ne perdono le tracce. Questo è un po' il lavoro anche importante che è stato fatto da questi Monuments Men. Esattamente. Poi noi siamo convinti che, insieme al movimento di resistenza che nasce in quegli anni, l'immediata manifestazione di volontà di rientrare in un'Europa di civiltà è data dal lavoro fatto da italiani anche a fianco di questi Monument Men per ricostruire la memoria. Questo ha consentito, ha dato il grande messaggio che noi facevamo parte di una civiltà e in nome di questa civiltà si stava liberando il paese dal fascismo. A me mia mamma ricordava sempre che il primo atto della giunta di Milano dopo la liberazione fu di stanziare un fondo per comprare la penicillina per i feriti dei bombardamenti e immediatamente alla stessa seduta la costituzione di un fondo per recuperare le biblioteche, i libri delle biblioteche e il teatro alla Scala. Cioè era un messaggio chiaro: il benessere, la cura di chi sta male, ma la cura del futuro e della cultura. E queste storie, alcune delle quali sono veramente romanzesche, di persone che, ripeto, ecco, oltre 60 anni, 65 anni, venivano mandati e ci andarono con entusiasmo a cercare di recuperare una parte importante della storia d'Europa. Allora, in questo 2018, ad 80 anni esatti dalle leggi razziali emanate in Italia nei primi mesi del 1938, anche la continua e incessante azione dei nuovi Monuments Men, che oggi hanno i volti dei carabinieri o degli avvocati e di tutti i paladini dell'arte, è forse uno dei modi, attraverso la restituzione dei tesori, per riparare in minima parte agli orrori di quegli anni bui. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Se avete storie da segnalarci, mandateci una mail a storiacce@radio24.it oppure ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account Raf Calandra. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.